La Anthony Perkins Productions presenta Harry Burr, 45 minuti ai margini dell'arte. Ascoltatori di Radio ZAM, Radio ZAM, bentornati all'ascolto di Harry Burr, prodotto come sempre dalla Anthony Perkins Productions e da Luca. Quest'anno Harry Burr durerà un pochino di più, 45 minuti, minuti più, minuto meno, ovviamente a seconda dell'argomento. Iniziamo questa nuova stagione con un'artista donna, un'artista molto particolare, Lorenza Mazzetti, che moltissimi di voi penso non avete mai sentito nominare, ma se andate come al solito a spulciare in rete vedete che è un personaggio notevolissimo della cultura italiana del Novecento e anche oltre, visto che è morta nel 2020, dalla storia curiosissima di essere stata, insomma, praticamente ospitata in casa dalla cugino di Einstein, avete scampato insieme alla sorella la strage di Rignano, aver fatto poi la scuola di cinema a Londra lavando piatti come cameriere, aver fatto quello che è considerato un prodromo del free cinema Together, di cui sentiremo poi uno spezzone audio, aver scritto sulla sua esperienza di bambina un libro che affascinò Cesare Zavattini, che si chiamava Il cielo cade, e anche tante tante altre cose, tra cui aprire un teatro e fare la pittrice. Ovviamente non ve le illustrerò puntualmente, ve le andate a vedere, vi voglio solo provare a proporre un assaggio del variegato di mondo di Lorenza Mazzetti e di suoni a lei in qualche modo vicini. Buon ascolto. Questo è lo orfanatrofano di l'isola di Pierina. Io non ho né papà e né mamma. Prima ero solo, ma da quando sto qui ho tanti fratellini e tante sorelline. Tu come ti chiami? Donatella. Senti, tesoro, c'è stata una bella giornata quest'anno per te? Sì, signorina. Cosa? È successo qualche cosa di bello? La festa di Sant'Antonio. Sì. E che cosa avete fatto? Ci siamo messi il vestitino nuovo e le scarpine nuove. E poi? Abbiamo mangiato i gelati e tanti dolci. E abbiamo giocato in cortile tanto. E tu come ti chiami? Laura. Senti, Laura, e per te qual è stata la giornata più bella quest'anno? Il cardinale. È venuto il cardinale? Sì, signora. E com'era vestito il cardinale? Di rosso, il cappello rosso e le scarpe rosse. E il vestito? Rosso. Tutto rosso? E tu dimmi, che cosa avete preparato per il Natale? La Ninna Nanna del cavallino. Come? La Ninna Nanna del cavallino. Dimmela un po'. Lungo i pascoli del cielo cavallino va, tutto d'oro il suo mantello, nella azzurrità vecchia luce. Senti, io vorrei sapere da te se ti è successo qualcosa di bello quest'anno. La cosa di bello è successo che io sono qui a Roma a lavorare qui in Valle. E vedete tanta gente viene a lavorare qua. È la prima volta che vieni a lavorare qua? Sì, prima volta. Prima dove lavoravi? A Ostia. Se fai questo lavoro devi andare a cavallo molto bene. Ci vado molto bene a cavallo. Ma allora fammi vedere. Scendi un po' e fammi vedere. Mi chiamo Gennaro. Tutte le mattine mi alzo alle 7:30 per prendere il treno per andare a Roma. E poi vado a Villa Glori a prendere i cavalli e andare con papà a Villa Borghese a lavorare. E spero di quando essere grande di andare alle capannelle a correre e a vincere delle gare. Alle 4:30 vengono i bambini e io li porto sulla carrozzina a fare i giri. Poi quando è buio, verso le 5:30, prendiamo i cavalli, li portiamo a Villa Glori. Lì li diamo a mangiare, li facciamo tutti in letto a posto e noi ce ne andiamo. E le verso le 8 arriviamo a casa a Ostia. When you walk through a storm, hold your head up high and don't be afraid of the dark. At the end of a storm, there's a golden sky and the sweet silver sound of love. Walk on through the wind, walk on through the rain, for your dreams beat us and blow. Quindi i primi due spezzoni sonori che avete ascoltato sono un estratto breve di un programma televisivo realizzato da Lorenza Mazzetti, e quindi la voce che avete sentito interrogare i bambini è la sua, che si intitolava Un anno di più. Era un'opera del 1960 realizzata per la Rai. Subito dopo avete riconosciuto sicuramente una delle più famose canzoni inglesi dell'epoca, You'll Never Walk Alone, nell'esecuzione di Jerry and the Pacemakers. Quello che invece sentite in sottofondo, non l'ho detto prima ma lo avrete sicuramente riconosciuto, è il tema di Indagine su di un cittadino al di sopra di ogni sospetto di Ennio Morricone, nell'esecuzione però dei Calibro 35. Tiene que ver el weiß es nicht. Hängt sie in das Zimmer und bringt sie zum Sprechen. Hey! Tutto. Tu sai dove è Wilhelm Einstein? Dove è Wilhelm Einstein? È con San Giuseppe! Sì, è con San Giuseppe, pare Gesù bambino! Cosa? Weg, weg, wir müssen weg von hier! Wir müssen gehen! Bring die Sache zu Ende. Keine Juden. Avete ascoltato in successione uno spezzone del film dei fratelli Frazzi, Il cielo cade, per l'appunto tratto dal libro di cui abbiamo accennato di Lorenza Mazzetti, che racconta un drammatico momento vero della sua vita, quella appunto dell'uccisione della sorella del padre che aveva adottato le due gemelle Mazzetti, e un film che era interpretato nella parte appunto della zia delle sorelle da Isabella Rossellini. Poi avete sentito un pezzo di una grande voce ancora dell'Inghilterra di quei momenti, ovvero Tom Jones. Il pezzo era It Looks Like I'll Never Fall in Love Again, un'esibizione dal vivo al Dusty Springfield Show. Per ultimo, non so quanto siete riusciti a distinguere, però quello che avete ascoltato era una clip dal famoso Together, ovvero il film di Lorenza Mazzetti, che è considerato un'anticipazione del free cinema, del cui manifesto, insieme a personaggi come Lindsay Anderson, la stessa Lorenza è stata una delle firmatarie. Quanti anni hai? 7. Dove abiti? A via Antonelli 49. Cosa studi? Italiano e l'aritmetica. Sei brava in aritmetica? Sì. Che voti hai? 10. E in aritmetica? 10. Allora mi sai dire quanto fa 3 per 6? 24. E 6 per 8? 24. Come ti chiami? James. James. Come il cognome? Demby. James Demby. Quanti anni hai? 5. E che classe fai? La prima. La prima. Cosa fa il tuo papà? Lo scrittore. Lo scrittore? Ah, si chiama William Demby. Noi lo conosciamo, abbiamo letto i suoi libri. E tu che cosa vuoi fare da grande? Lo stesso, lo scrittore. Anche te vuoi fare lo scrittore? Sì. Senti, James, raccontami qualcosa. Raccontami se ti è capitato qualcosa di bello quest'anno. Beh, veramente no. Ti è successo qualcosa di brutto? Che cosa? Dimmi. Non lo so ancora. Qualcosa di brutto? Che cosa? Dimmi. Mi hanno fatto questo graffio. Questo graffio? Chi te lo ha fatto? Quando giocavo in giardino a scuola. I compagni? Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. Younger, so much younger than today. I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I find, I've changed my mind, I'll open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being around. Before. Help me if you can, I'm feeling down, andare a Londra con un gruppo di studenti, perché all'università di Firenze c'era scritto, io ero, mi ero iscritta a filosofia, c'era scritto: guarda, studenti, un gruppo di studenti, se volete firmare, volete andare a passare le vacanze in Inghilterra, studiare l'inglese, raccogliere patate, e sarete pagati per raccogliere patate. E quindi io sono andata per raccogliere le patate, ma anche per fuggire l'incubo di questa casa dove c'erano ancora i loro vestiti, le loro scarpe, noi non riusciamo a togliere nulla, né a toccare nulla. E sorvolo il fatto che quando sono arrivata mi hanno messo un sacco di patate sulla schiena e sono caduta sotto il sacco e non ho potuto fare questo lavoro. Poi mi hanno messo a un lavoro più leggero, sai, togliere le patate buone da quelle cattive che ti passano velocemente, con Charlie Chaplin, insomma. E naturalmente mi guardavano e vedevano che io le buone le lasciavo, le buttavo, non capivo più niente dall'agitazione. Mi hanno detto: guardi, lei se ne va. E mi hanno messo per strada la valigetta che avevo e mi hanno detto: faccia l'autostop per Londra e vada a un'agenzia di collocamento. E io questo ho fatto. A un certo punto ho preso un albergo piccolo, una pensioncina, ho detto: adesso sai che faccio? E invece di raccogliere patate mi guardo i musei. E così sono stata un po' di tempo, ho detto di mandarmi i soldi che avevo preso qui, là. Insomma, dopo 2 mesi io non avevo ancora ricevuto i soldi dal tutore. Al terzo mese mi hanno messo fuori, in mezzo alla strada, in tutti i disegni che avevo fatto, i miei scritti, perché scrivevo io. Allora aspetta, insomma, a un certo punto arriva, telefona Paola e lei piangendo mi dice: non abbiamo una lira. Come sarebbe a dire, dice? Abbiamo perso tutto, perché lui ha perso tutto, il tutore. Dico: e come fai a sopravvivere? Dice: mi ha aiutato Federico Gentile, il figlio del famoso Gentile ucciso dai comunisti. E ha avuto pietà di me, sapendo che anche io ero stata vittima, non dei comunisti, ma dei nazisti. E quindi lei adesso aveva un lavoro. E io non avevo un lavoro, ho trovato semplicemente da lavare i piatti, perché tutti, insomma, gli italiani quando vanno lì lavano i piatti pure, non fanno altro. Ma intanto mangiavo, almeno 3 giorni alla settimana mangiavo, 2 giorni mi ingozzavo, perché pensavo che se mi ingozzavo potevo non mangiare per 2 giorni, invece questo mi ha fatto molto male. Ma insomma... praticamente, poi rubavo ai grandi, ai supermarket, al cioccolato, capito? Facevo così. Ma un giorno mi sono stancata di lavare i piatti e ho deciso: vado all'università. E ho preso la più chic, quella dove c'erano questi artisti che ancora non sapevo che fossero famosi, però Lucian Freud, capivo che insomma se era nipote di cui c'era lui. Poi sentivo parlare che c'erano questo Bacon mi aveva colpito, perché non sapevo chi era, ma ero entrata in una galleria d'arte e avevo visto 4 papi su fondo viola, con la faccia ma senza occhi, alcuni senza occhi e solo con la bocca, un altro con la bocca... chi aveva la bocca non aveva gli occhi, insomma qualcosa di così. Ma erano così spaventosi che io, che ero abituata al Papa, vedermelo rappresentato così, ho detto, ma chi è quest'uomo? È stato... E è diventato, era il mio uno dei professori di queste università. Allora io sono andata lì e ho detto, io voglio fare l'università. Ma non avevo una lira, allora sono andata a chiedere se potevo essere un'alunna e lei ha detto, senta, con molta gentilezza e pietà, mi ha detto, guardi, per favore se ne vada perché lei non ha soldi, non può entrare, non ha riempito i moduli, domani apre l'università, non si capisce perché lei insiste nel volere venire qua, non ha fatto nessun esame, non ha riempito nessun documento, eccetera, non può. Allora io ho detto, io voglio parlare col direttore, io non voglio niente, voglio solo parlare col direttore. Lei dice, senta, lei non può parlare col direttore, deve andarsene. Al che io ho cominciato a urlare, Allora è uscito un uomo che si vedeva che era l'uomo delle pulizie, perché aveva le bretelle, in camicia. Ha detto, chi è, cosa vuole? Dice, ma la porti via questa ragazza, non se ne vuole andare, non mi fa lavorare. Mi dice, ma lei cosa vuole? Dico, voglio parlare con il direttore. Va bene, venga con me che la porto dal direttore. E questo era William Coldstream. William Coldstream. Dico, ma insomma, lei... mi dica, io vorrei chiedere al direttore se posso essere un'alunna, non ho soldi, non ho niente, ma insomma, però sono un genio. Ah, dice, se lei è un genio, allora può entrare. Ecco, fa vedere cosa ha fatto e gli ho fatto vedere dei disegni dove c'erano, mi ricordo, delle rotaie, dei fili elettrici e dei cadaveri. Dice, ma insomma, sì, veramente abbastanza strane queste cose. Va bene, lei da domani mattina, perché apre domani mattina, alle 9:30 si faccia trovare puntuale con tutti gli attrezzi per dipingere. Io dico, sì, io la ringrazio, però lei mi deve far parlare col direttore. Dice, sono io il direttore. Questo di questo. Allora, è finito qui questo episodio. Allora, arrivi a Londra, vieni accolta nell'università in relazione anche alla tua sfrontatezza, sì, ma anche alla tua freschezza, tutto sommato. Sì. E che succede a quel punto? Incominci a frequentare i corsi. Che corsi sono? Sono dei corsi, per esempio, molto belli del professor Witkover, che era famosissimo e molto... Tutti gli studenti andavano, ma lui faceva vedere, proiettava delle slide e poi le commentava. Lui era uno storico dell'arte famoso. Io ancora non capivo molto l'inglese, per cui praticamente mi piaceva vedere le cose, però non seguivo molto. Cercavo di capire l'inglese, ma ancora questo inglese non mi entrava nella testa. Però intanto frequentavo i ragazzi, gli studenti. E avevo visto un giovane bellissimo che dipingeva e così guardavo il suo quadro, era molto bello questo quadro, guarda, era un mare grigio, della gente in bikini sdraiata sulla spiaggia e a sinistra un uomo tutto vestito al doppio petto con le scarpe che guardava di spalle. Era veramente strano. Ho detto, ma questo è un capolavoro, perché c'è questa presenza così assurda che guarda questo mondo. Ho cominciato a innamorarmi un po' di questo giovane, anche perché era molto, molto carino. Ma no, dire bello è dir poco. Poi tu l'hai visto, no? Nel film. Non si può dire era bello. È speciale. Una specie di angelo caduto per terra, di un'innocenza assurda. L'università a Londra, tutte credo l'università, hanno i club, cosa che noi non conosciamo, i club. I club sono delle riunioni delle persone che giocano a scacchi, club dei scacchisti, club dei nuotatori, club dei tennisti, club dei... non lo so ancora, c'è l'ultimo club, proprio l'ultimo, Porticinera, club, film club. Ma film club, ma tu ti rendi conto? Io quando ho visto film club ho aperto la porticina e ho visto, brillava come un tesoro, delle pizze brillavano, la macchina da presa, le luci. Dico, ma qua, ma scusa, tu avresti, le avresti rubate per fare un film? Le avresti rubate. E io ho chiamato Michael, questo ragazzo innocente, con la sua innocenza, e gli ho detto, vieni, andiamo, portiamo via tutto, che dobbiamo fare un film. E tu devi essere l'attore. Io l'attore? Sì, ma io non so recitare. Ma tu? Io posso imparare forse qualche testo. No, non c'è testo. E che devo fare? Niente, devi solo cercare di scendere da un letto. Ma che volevo fare? La Metamorfosi di Kafka. Ma abbiamo portato insieme a una ragazza molto carina che ha detto che avrebbe recitato anche lei. E l'hai vista come carina? E un ottimo fotografo che era un giovane egiziano, che era un alunno anche lui, che ha detto che era capace di fotografare. E allora io, e qui entra il mistero di Kafka, il mistero, perché non avrei rubato nulla se io non avessi avuto l'amore folle per quel ritratto famosissimo di Kafka, che guarda la macchina da presa con quell'espressione di stupefatto orrore. Io al posto di Gesù avevo messo lui e lo guardavo e io mi identificavo a lui, mi identificavo perché ero sola e dicevo, ma lui ha lo stesso sguardo che ho io verso gli altri, questo stupefatto orrore. Dopo la voce della Swing in London di Beatles, una canzone oltretutto che era nella colonna sonora dell'omonimo film Help, Tutti per uno, di Richard Lester, che è un po' il cantore, il cineasta, seppur americano del periodo della Swing in London, americano che lavora però in Inghilterra per lo più, avete sentito dopo, sicuramente riconosciuto, capito, compreso comunque, che quella era la voce di Lorenza Mazzetti, da una intervista che c'è sul web che si titola Diario Londinese, in cui la stessa artista poliedrica racconta come è arrivata a Londra e come è riuscita a infiltrarsi all'università e come ha iniziato, insomma, a fare cinema rubando, non è un modo di dire, cioè letteralmente, le attrezzature al club dei film dell'università. Il tutore a cui si allude nell'intervista, se non si capisce, è sostanzialmente quella persona che amministrava l'eredità dello zio morto suicida per conto per le gemelle Mazzetti, che come avete sentito la signora Lorenza si era praticamente perso tutto. To sing one of the songs that made this all possible. It's called Anyone Who Had a Heart. Anyone who ever loved could look at me and know that I love you. Anyone who ever dreamed could look at me and know I dream of you. Knowing I love you so. Anyone who had a heart would take me in their arms and love me too. Oh, could be another heart that hurt me like you hurt me and me so untrue. What am I to do? Every time you go away, I always say, this time it's goodbye, dear. loving you the way I do. I take you back. Without you, I'd die, dear. Bene, dopo aver ascoltato Cilla Black, voce degli anni 60 inglese per antonomasia con Anyone Who Had a Heart, e state ascoltando in sottofondo la colonna sonora di un documentario su Lorenza Mazzetti realizzato da Steve Della Casa e Francesco Frisari, documentario che si titola significativamente Perché sono un genio, e a noi vi lasciamo a questa musica, noi qui da Radio ZAM da Rebur, quindi un Nos Maiestatis, in realtà perché ci sono solo io, e vi rimando al prossimo appuntamento che sarà con una puntata come al solito di Ulisse contro tutti. Buon proseguimento su Radio ZAM. Arebur.